con Enrico Nosei del Cinema Spazio Oberdan di Milano, dove è in programmazione dal 1 al 14 aprile 2019 il film Aga di Mirko Lazarov in anteprima italiana. Enrico, ben trovato. Salve, salve a tutti, grazie. Ti racconti in breve questo film? Non è un film che si può tanto raccontare perché, pur non essendo assolutamente un documentario, ma un vero e proprio film di finzione, ha, diciamo, un po' i tempi del documentario e sicuramente una drammaturgia, un'organizzazione narrativa non da film americano classico. È invece un film molto più rarefatto, molto più silenzioso, molto più basato sull'attesa, sui vuoti, sul silenzio, sulla natura. Racconta la storia di una coppia anziana. Il film è girato in una regione della Siberia nord-orientale che si chiama Yakutia, che sembra un nome di fantasia, ma invece è il nome autentico di quella regione nella quale vivono molti russi e ucraini, ma la popolazione indigena sono gli Yakuti. E questi due protagonisti del film appartengono a quella popolazione e raccontano, diciamo, questa loro vita sulla banchisa in una capanna che è fatta di caccia, momenti di solitudine, di momenti di condivisione, il pranzo, la cena, la notte, la riflessione, eccetera, eccetera, che danno così una, intendono dare una misura dell'esistenza completamente diversa da quella alla quale noi siamo abituati. Qualcuno ha voluto vederci anche, e c'è sicuramente, ha affrontato proprio il tema così, della distruzione del pianeta, dei cambiamenti climatici, del poco rispetto che si ha nei confronti della natura, che è quello che naturalmente non è incarnato da questa coppia di anziani, i quali invece hanno due figli, che ne so, diciamo 25 anni, 30 anni, che hanno lasciato quel posto lì, quella capanna, sono andati a vivere in città e in qualche modo, diciamo così, fanno prefigurare il fatto che presto lì non ci sarà più nessuno e chi ancora poteva starci per difendere determinati valori e determinati aspetti naturali è destinato a scomparire. Cioè, il film è molto bello, davvero sembra un film girato con gente del posto. In realtà svelo una cosa, i due attori sono due attori del teatro Yakuti, quindi sono due, diciamo, professionisti, se vogliamo. Certo, hanno una recitazione ben diversa, anche in questo senso, da quella a cui siamo abituati noi nella cultura e nel cinema, diciamo, occidentale. È molto curioso però che appunto non si tratti di persone prese dalla strada, anche, anzi in questo caso dovremmo dire dal ghiaccio, proprio per la credibilità che danno al film. E peraltro questa finzione cinematografica viene denunciata anche dal fatto che il film per buona parte è basato solo sui rumori d'ambiente, sulle voci dei personaggi, peraltro, come dicevo, dialoghi molto rarefatti, poi da un certo punto invece c'è una musica di accompagnamento che è niente meno che la Quinta Sinfonia di Mahler, che tutti i cinefili ricordano, anche se non sono degli esperti di musica classica, perché era la famosa musica di Morte a Venezia di Luchino Visconti, che a un certo punto si inserisce nel film e lo viene ad accompagnare e suona, se vuoi, come un elemento proprio di finzione, che però è molto potente a livello proprio di senso e prefigura, diciamo, questo finale del film che è straordinario. Io non voglio anticipare niente, ma l'ultima inquadratura del film, che è un'inquadratura dall'alto con l'immagine che si apre progressivamente, è veramente di grandissima potenza visiva, ma anche di grandissima potenza a livello di significato, proprio se vogliamo leggere in questo film anche così, un grido di dolore, un grido di allarme nei confronti di quello che stiamo combinando a questo benedetto pianeta che si chiama Terra. questo è Aga. È chiaro che è un film che si rivolge a una riflessione, ad un aspetto, diciamo, anche spirituale dell'esistenza e quindi della fruizione cinematografica. È un film molto intenso e secondo me molto denso, secondo me molto bello, ma speriamo, vediamo, insomma, come verrà accolto dagli spettatori. È un film che abbiamo, che la Cineteca ha preso in programmazione esclusiva e quindi è l'unica possibilità di vederlo, almeno per il momento, è Spazio Oberta. Volevo chiederti quali erano gli elementi che ti hanno più catturato, ma insomma ce li hai detti abbastanza esattamente, quindi... Ma guarda, c'è questa, ti dicevo, c'è questo fascino dei volti, per esempio, di questi personaggi, oltre che di certi paesaggi di albe e tramonti sulla banchisa ghiacciata, che evidentemente sono molto spettacolari, ma anche davvero i volti di questi due protagonisti che mangiano e a volte sono illuminati dalle fiamme, dal fuoco, diciamo, fatto con la legna e quant'altro, ecco, ci si perde un po' dentro queste immagini e bisogna, per apprezzare anche il film, bisogna riuscire a lasciarsi proprio così, venire incontro da queste immagini, lasciarsi un po' invadere da queste immagini, da questi tempi, da questi silenzi di cui il film è fatto. Che tu sappia, ha avuto una circuitazione estera? Che io sappia, ancora no. Mirko Lazarov, con questo è solo la sua opera seconda, un regista bulgaro da 43 anni adesso. Lui era stato col suo primo film, che si intitolava Alienazione, che raccontava una storia completamente diversa, che non c'entrava niente con quello. Si potrebbe pensare che questo regista è attratto da questi spazi naturali incontaminati o già un po' contaminati e da non contaminati. Non è così. Quell'altro film, presentato alle Giornate degli Autori di Venezia nel 2013, raccontava una storia molto drammatica e completamente diversa, direi anche più tradizionale, insomma, rispetto ad Aga. No, non credo che abbia avuto, è stato presentato a Berlino nel 2018, non in questa edizione del festival, quella dell'anno scorso. No, non credo che abbia avuto una circuitazione. Del resto è un lavoro sicuramente impegnativo, insomma, non è un film semplice, però è un film bello, quindi per chi ancora va al cinema, insomma, sperando di vedere cose anche un po' originali rispetto alla consuetudine e alla uniformazione che, ahimè, poi si trova in sala, questa è un'occasione, secondo me, da sfruttare, da non perdere. E allora ricordiamo il film Aga di Mirko Lazarov, in programmazione a Milano, in anteprima italiana al Cinema Spazio Oberdan dal 1 al 14 aprile 2019. Un saluto e un ringraziamento al direttore della programmazione Enrico Nosei. Un abbraccio, in bocca al lupo e alla prossima. Alla prossima, grazie a voi.